Grazie a tutti per la presenza e la partecipazione. Per Ciccarelli è la terza volta, due volte in sede e una volta in esterno. Sapete di cosa tratta questo libro? È una riflessione su due figure chiave del pensiero critico novecentesco. Un approccio da strumento degli attrezzi, di che cosa possiamo farcene di questo pensiero in un divenire delle lotte. E quindi io inviterei, oltre a presentare i contenuti del libro, per parte mia, a cercare di stare vicini al presente. È vero o no che l'inverno sta finendo? Questa è per me... infatti abbiamo messo il tendone fuori, ma quello che avviene nelle strade d'Italia, che ha avuto una manifestazione eclatante il 22 settembre, ma che aveva avuto dei precedenti, può essere inteso come un, per quanto lento e progressivo, movimento di fuoriuscita dai vincoli che aveva patito la generazione precedente, sostanzialmente, perché uno dei tratti, lo rilevano tutti, è l'estrema giovinezza di molti dei partecipanti. Quindi questo è un particolare, ci sono tanti altri elementi del presente di segno diverso, tutti comunque drammatici. Ecco, il mio invito, che però penso non sia neanche necessario esplicitarlo, è già dentro lo spirito del libro, è di ragionare alla luce di alcune domande sull'oggi. Nella consapevolezza, essendo qui in un centro sociale, che posti come questo si trovano in un momento di passaggio fine, cioè la vicenda dei 50 anni del Leoncavallo a Milano significa qualcosa. Questi 50 anni sono i primi di una lunga serie, sono gli ultimi, e che cosa seguirà? Quindi anche non soltanto in una dimensione socialmente estesa e che ci vede protagonisti, ma più come spettatori incuriositi che come diretti protagonisti, perché il 22, la stragrande maggioranza delle facce in piazza io non le conoscevo, no? Ecco, invece questa situazione di trasformazione con tutte le urgenze, invece vista più da vicino all'interno, ha questa possibile declinazione, visto anche che questi due autori di Elisa Gattari sono stati usati innanzitutto all'interno di quello che un tempo era detto il movimento. Quindi quale può essere un loro uso, un approccio a questi filoni del pensiero critico in questi posti da parte di chi continua a frequentarli con tutta la differenza di soggettiva, ma anche di presenza nella città. I posti ancora occupati, ancora autogestiti, che pure permangono, sono qualcosa di diverso, perché la città è anch'essa cambiata. Quindi questa è un'ulteriore articolazione della domanda: cosa ce ne facciamo? Pongo soltanto questi due elementi perché l'utilità di momenti come questo sta, secondo me, anche proprio nello sforzo di ragionare in termini teorici e non nell'immediatezza del dato sulla realtà che abbiamo di fronte e le questioni che questa realtà ci pone, non partendo da un libro, ma partendo da una da una questione grossa come quella della guerra, qualche giorno fa c'è stato un incontro importante promosso da Effimera al Cantiere, sul quale varrebbe forse la pena di spendere qualche parola, di restituire, di riferire qual è stata la discussione, perché alcuni c'erano, ma insomma, la partecipazione è un po' differenziata, lo sapete, tra un posto e l'altro a Milano, e quindi vale la pena di usare anche di questa occasione per raccontare un po' come è andata come è andato quel giorno, che era poi sabato scorso, no? Quindi una cosa. Ecco, basta, solo questo. Io torno ai fornelli, sapete, da Locandina, che dopo si mangerà insieme. Se riuscite a far sapere in quanti ci si siede intorno al tavolo, uno lo davamo già per certo, è più semplice organizzarsi. Basta. Grazie Roberto. No, davvero, se riuscissimo poi dopo un primo momento a fare un appello per chi resta qui, in modo che anche loro giustamente si organizzano. Rispondo a due questioni introdotte adesso da Roberto. Questo libro interviene sulle piste del presente, adesso lo vedremo, insomma, spero di riuscirne a darne conto, e interviene sulle piste del sapere però e della prassi, tenendo al centro un concetto, un nodo che dovrebbe essere scontato e che invece a mio avviso nell'oggi troviamo un pochino messo in questione con troppa faciloneria, ossia che sia possibile progettare, inventare, immaginare senza avere dei saperi che chiedono la loro fatica. C'è una fatica, il conoscere, l'apprendere posizioni critiche, lo sviluppare uno sguardo proprio, non è qualcosa che arriva. La destituzione dei saperi, della loro centralità, della loro funzione critica, è uno di quei microfascismi che viaggiano, su cui ritornerò, perché il libro di Roberto Ciccarelli su questo si interroga lungamente, al quale bisogna opporre una decisa avversione, una lotta. Adesso però vorrei introdurre la serata e qui presente con me anche la mia complice amica Cristina Morini. Appunto abbiamo tenuto questo seminario organizzato da Effimera sabato scorso al Cantiere sulla guerra. È stato un seminario ricco, importante. Cristina è una saggista, una ricercatrice riconosciuta per i temi del lavoro, del precariato, del femminile. È una anche attiva donna capace di fare alleanze, reti e saperi, che è un lavoro durissimo, perché se io un attimo in mente il lavoro che Cristina svolge sia come ricercatrice ma anche per la rete Effimera con Andrea Fumagalli che è qui con noi stasera e gli amici che insomma poi possono attingere, beh, su Milano questo è un aspetto non banale, è qualche cosa di prezioso al quale prestare attenzione. E magari poi chiederei a Cristina di spendere qualche parola, no, su questo incontro di sabato scorso. Ho accanto a me l'autore, quindi il nostro amico protagonista, in qualche modo anche lui complice, Roberto Ciccarelli, che è un filosofo, è un ricercatore, come sappiamo scrive sul Manifesto, sulle pagine culturali, è autore di molti testi, tra cui Dall'odio dei poveri, e questo ultimo libro che ci interroga in maniera particolare. Io non so se riuscirò a restituire la ricchezza di un lavoro che è al contempo un lavoro minuzioso, rigoroso, ripercorre l'opera di un filosofo difficile, perché poi bisogna anche essere chiari su questo. Deleuze non è un filosofo di facile approccio, ma un filosofo che ha nutrito, è vero, i movimenti, è stato tenuto ai margini per tutto un periodo, non solo in Italia ma anche in Francia. Ciccarelli ricostruisce un po' anche l'iter, no? Della vicenda della ricezione intellettuale di Deleuze e Guattari, a mio avviso col pregio di non disgiungere il capovolgimento di sistema che i due hanno fatto assieme, i molti che noi siamo. E attualmente, certamente, con il centenario morte e nascita, è esplosa un po' la Deleuze euforia, con esiti molto diversi, no? Ma questo, in questa serata, a mio avviso, ci interessa davvero molto poco, perché io vorrei soffermarmi sulla originalità di questo testo, cioè perché un libro su Deleuze oggi ci dia un apporto particolarmente necessario, così ho scritto nei giorni passati. La necessità sta proprio nel fatto di individuare il problema del divenire rivoluzionari in un processo che non è solo un processo di lotte, ma di individuazione di sistemi di pensiero capaci di mettere in discussione, di smottare quello che sembra essere un orizzonte omologato, definito una volta per tutte. In Deleuze, che a me personalmente ha salvato la testa e la vita per molti aspetti, questo c'è. Ci sono le aperture, ci sono le possibilità di sottrazione, ci sono le individuazioni di linee di frontiera altre. Ora, il lavoro che Ciccarelli compie, a partire già dalle pagine 42 e 45 sul divenire minoritario, a mio avviso definiscono già il punto di partenza fondamentale. Che cos'è divenire minoritari? Che cosa significa? Iniziamo a insistere in primo luogo proprio sul come il divenire sia qualcosa che non solo si sgancia da ogni forma di dialettica, ma abbia anche dei passaggi, delle genealogie che hanno reso alcuni pensatori, come Spinoza ad esempio, ma insomma, Deleuze dice il Cristo dei filosofi, ma pensatori che hanno prodotto frattura, frattura irreversibile. Frattura irreversibile insinuando in un ordine ricompositivo un'idea del vivente, della vita, delle soggettività che è enormemente, profondamente plastico. Il divenire è un modo che non è solo quello della trasformazione, è la processualità. E insistere su un processo che trasforma, e non trasforma solo un ipotetico io che si pone al centro, no? Un soggetto centrale cartesiano, trasforma tutto quello che lo forma, lo segna, lo scrive, cioè un ambiente. Il divenire minoritario non vuol dire essere un marginale. Iniziamo a sgombrare uno dei primi equivoci che spesso, no, intervengono su questo. Minoritario vuol dire non sentirsi catturato da apparati di omologazione, comunicazione, pensiero dominante che impediscono le alterità, che sono appunto molteplici. Il molteplice è fondamentale, nel pensiero sia deleuziano che di Deleuze e Guattari, perché indica l'ipotesi, le possibilità delle diramazioni. E questo ha a che vedere con l'azione. Se io sono un soggetto che non è sacrificato o immediatamente catalogabile, ho anche possibilità di agire, di proporre e di propormi dentro però un contesto complessivo e collettivo. Ora, tutto questo Ciccarelli lo chiarisce quando parla di caosmos e anche nella bella recensione di Ubaldo Fadini, no, di Cosmopolitica, è proprio il concetto di pensiero-azione, per tornare a quanto ci chiedeva Robertino prima. Pensiero-azione vuol dire che i limiti sono delle soglie dove si misurano le intensità, che sono intensità di trasformazione, divenire donna, divenire bambino, divenire animale, divenire inorganico. Soglie di intensità, perché Deleuze poi ci dice appunto anche le donne devono divenire donna. Che cosa significa? Che c'è una destrutturazione di un apparato di costruzione culturale che è sempre possibile, una scoperta che va sempre esplorata. Ora, tutto questo in che momento avviene? E vengo un attimo, perché ho segnato davvero molte cose di questo libro così prezioso. Avviene anche considerando l'attualità di un pensiero che, soprattutto per Gattari in questo caso, in certi anni diventa un pensiero che si fa, no, un po' cupo. Perché? Perché lui scrive Gli anni d'inverno, sente che una stagione si chiude, e però segnalano, avevano già segnalato entrambi, l'insorgere dei microfascismi. E qui arriviamo, secondo me, a un tema, a un piano di riflessione nell'oggi assolutamente importante. Tutta la seconda parte del libro di Roberto Ciccarelli è dedicata a mappare questi fenomeni, no? Analizzi il trumpismo, ti soffermi su tutta una serie di derive che stanno attraversando l'Occidente in buona parte, ma non solo, in maniera particolarmente, a mio avviso, nuova, il nostro vecchio mondo un po' agonizzante. Ora, questo potrebbe descrivere un universo che non ha molte vie di uscita, che non ha possibilità di progettazione altra, che non ha, cioè, soluzioni di sorta. Però i due ci parlano anche di una rivoluzione molecolare, cioè di una possibilità di esperire, non in un momento messianico, questo secondo me è uno dei messaggi e delle consegne più preziose: non c'è un'ora X a cui tendere, non c'è da attendere un soggetto che ricomponga tutte le frantumazioni. Si può agire, produrre azione ora tramite alleanze, amicizie, altra parola carissima a Deleuze, reti, rizomi, sapendo che non sono costituiti una volta per tutti. Questa consapevolezza, a mio avviso, pone, no, il problema dell'immanenza. L'immanenza per Deleuze è una questione molto concreta, non è una postura teorica tout court, è l'idea che ora, nell'oggi, ciò che può accadere deve essere accolto in che cosa? In una possibilità di reti, alleanze che non solo si sottraggono, ma sono capaci di accogliere eventi inesplorati, nuovi. La storia non è data una volta per tutte, posto che la questione della storia sia qualcosa che a loro interessi in maniera così pressante. Non c'è una resa alla narrazione dominante, mai, ma questo non per volontarismo, semplicemente per un'esplorazione fatta sul campo, perché libri come Mille piani, prima ancora L'Antiedipo, ma anche già, a mio avviso, da Differenza e ripetizione e poi Causmosi invece per Gattari, indicano che si può concepire l'esistenza, la vita, le grandi configurazioni del vivente, come qualcosa che ha un'eccità. Questo viene anche da tutta una derivazione marxiana, il famoso libro che si favoleggia un pochino, no, Deleuze, non fosse riuscito a scrivere, cioè Grandeur de Marx. Ma questa ascendenza è molto precisa nei riferimenti, è precisa nell'approccio materialistico, che non cede mai a nessuna seduzione di recupero estetizzante. Ciò che ha importanza è non essere, la chiudo qui, indegni di ciò che ci accade. In definitiva, questo libro ci dà un percorso che ricostruisce la ricezione, un percorso che ricostruisce la mappa concettuale dell'opera di Deleuze in maniera assolutamente rigorosa, le pagine sull'immanenza, la parte filologica, i riferimenti filosofici sono stringenti, tutta una quota importante, altrettanto corposa, è dedicata proprio a quello che ci accade. Quindi, secondo me, la sua originalità e la necessità di questo libro si spiega in un'operazione che non è decorativa, ma è un'operazione attiva, in alleanza col pensiero di Deleuze. Non è una commemorazione. Grazie. Ecco, allora scusate, mi stanno giustamente chiedendo, riuscite a dirci quanti si fermano a cena stasera, alzando le mani magari? Più tutti quanti noi, chiaramente. Grazie, scusate. Ora passo la parola a Cristina Morini e ve l'ho presentata, magari Cristina, se cortesemente spendi anche due parole su sabato scorso. Sì, adesso è difficile riuscire a restituire i lavori di un'intera giornata. Quello che posso dire, la prima cosa che mi sembra significativa è la presenza. Abbiamo registrato nel corso di appunto una giornata intera, dalle 10 fino alle 19, sale piene e un desiderio grandissimo di parlare di questo argomento della guerra, a cui abbiamo infatti abbiamo lasciato anche molto spazio alla discussione, perché si creasse una discussione. Ovviamente l'operazione è stata complessa, perché si è trattato di mettere insieme molti piani a proposito di quello di cui stiamo parlando oggi, no? Quindi più elementi che evidentemente creano questa concatenazione nel presente, questo presente di guerra e di riproposizione della guerra come forma di governo, no, che ci viene imposta dai regimi soprattutto economici, dentro la crisi della forma Stato, la crisi del diritto, un problema che ha a che vedere con la comunicazione, no, che evidentemente ci passa sopra come un rullo, e poi evidentemente tutte le questioni geopolitiche. Ci siamo anche molto soffermati a considerare quelle che sono le ricadute da questa parte sui territori qui fuori, diciamo, da quella che è la guerra senza le armi, no, ma comunque è una guerra anche da questa parte qua, no? E quindi territori e le modalità in cui anche da un punto di vista sociale questa forma di governo, come dicevo, fondata sul bellicismo e sull'industria bellica, con tutto ciò che implica anche da un punto di vista del disfacimento degli stati sociali, eccetera, eccetera, oltre che degli stati nazionali come entità, che insomma forse per molti di noi non hanno mai avuto un grande senso, ma insomma sono nell'evidenza della loro crisi, no? Quindi dico questo per riallacciarmi a poche cose che voglio aggiungere, e dentro un tono minore, più basso, in questa presentazione al libro di Roberto Ciccarelli, per dire che effettivamente c'è molto bisogno di politica. E come dire, tu hai intitolato questo libro Divenire rivoluzionari.e, no? Quindi si tratta di un libro fondamentale da questo punto di vista, quindi ritrovare questo sguardo sul mondo, no? Che sia capace di una parola densa, di questo pensiero azione a cui facevamo riferimento, quindi se vogliamo anche l'incontro di sabato e dare continuità a queste forme, no? Come dire, di un pensare collettivo, no? A proposito, che è anche un po' quello che ci manca e sul quale poi disperatamente lavora il potere con banalizzazioni e neutralizzazioni di problemi immensi, no? Tutto questo Roberto lo fai a partire, appunto, tra le poche cose che insomma voglio aggiungere, da un concetto importante che è quello del divenire donna, che è un concetto evidentemente che anche a me ha molto affascinato negli anni e ha una funzione centrale proprio per rompere i dualismi, no? Tra l'altro eternamente oppositivi, queste continue antinomie no? Sulle quali si costruisce il discorso del potere contemporaneo, no? Che proprio lavora massicciamente sulla separazione dell'individuo dagli altri, a proposito della necessità, no? Di momenti di condivisione. Come questo appunto, no? Come l'occasione di presentare un libro che si ripropone di mettere al centro questo elemento della politica. Tu all'inizio del tuo libro citi Lea Melandri e la creazione di Nessi, no? Di cui Lea Melandri ha sempre fatto riferimento, come la possibile costruzione di un collegamento, no? Oltre ogni sterile dialettica tra e nei sessi, tra il simbolico e la sessualità, tra quest'ultima e il divenire. E perché la donna? Perché a differenza dell'uomo maschio e in forza di una storia secolare incarnata, la donna viene individuata da Deleuze e Guattari come una tendenza verso un modo di essere, no? Finalmente che eccede la dimensione individuale, no? Dando luogo ad un'etica esperienziale, molteplice, che riesce a superare le identità molari, maschili e il loro modo di porsi attraverso delle dinamiche di sapere e potere che evidentemente vanno messe a critica, utilizzando il pensiero critico. Non è che vuol dire che noi il sapere non lo dobbiamo utilizzare, ma va utilizzato evidentemente contro quelle dinamiche che tanto gravemente oggi veniamo in atto. Questa operazione riesce, se si riesce ovviamente a concepire la donna, questo sia chiaro, no? Non come un'entità opposta all'uomo, non nel suo essenzialismo, no? Come ricordava Tiziana, bisogna anche essere capaci di divenire donna, no? Ma appunto come una postura, penso io, quindi questa idea della donna molecolare che mi richiamava il tema della moltitudine, no? E tu a un certo punto, come scrivi, le pratiche a cui si può mantenere fedeli sono appunto quelle di una creazione collettiva, irriducibile alla regolazione del burocrate, del portavoce di professione, del giudice pubblico o privato, tutta una lotta capillare continua ad essere necessaria per strappare la pratica teorica dal suo ghetto, così come la politica dai suoi fantasmi d'ordine e quella del desiderio dalle dipendenze che emergano nella famiglia, nella coppia, nell'io, nell'immaginario, nei binarismi di genere. Insomma, abbiamo proprio ancora molto bisogno anche di reinvenzione, no? Di un quotidiano e di un politico. Mi veniva nominare qui Conversazione di Deleuze e Parnet perché per me era molto chiaro, no? Quando a un certo punto loro dicono che tipo di divenire, la gente pensa sempre a un avvenire maggioritario, quando sarò grande, quando avrò il potere, no? Mentre il problema è quello di un divenire minoritario, no? Non mimare, non fare o imitare il bambino, il folle, la donna, il balbuziente, lo straniero, ma diventare tutto questo per inventare nuove forze e nuove armi. Quindi non è, no, un ritirarsi in una stato di minoranza, no? Ma evidentemente il contrario, no? È una riattivazione, una forma di riattivazione. E dunque, ecco questa visione alternativa a un divenire minore che punti a una fuga nella relazione. Ora, se noi fossimo capaci di assumere questo punto di vista e di cogliere i collegamenti possibili con un'etica dei subalterni, una maggiore connessione, no? A proposito anche di come va il mondo, no? E di questi meccanismi geopolitici che, insomma, accennavo molto, molto sinteticamente prima, penso che forse allora potremmo essere e avere una diversa politica connessa a differenti modi dell'essere. Io anche sabato ho spesso fatto appello a questa idea di una politica, con l'idea che forse facciamo anche fatica a comprendere, no? A che cosa alludiamo quando parliamo, no? Di un bisogno di politica. E poi potremmo in questo modo non subire gli effetti di una maggioranza autoritaria e i microfascismi di cui parlava prima Tiziana, no? Di un corpo collettivo violento che si allarga in varie forme e modalità, cui dovremmo essere in grado di opporre antidoti di microantifascismi, no? Un insieme di azioni individuali e collettive in grado di disinnescare il desiderio di dominio con pratiche di cura, collaborazione, condivisione. Ecco, forse questa è anche una modalità della nuova politica da reinventare. Poi Roberto Ciccarelli ha restituito alcune mie riflessioni sul divenire donna del lavoro, di cui ovviamente lo ringrazio infinitamente. Io ho provato a scrivere della complessificazione, disfacimento, nomadismo delle categorie di genere, no? A partire proprio dall'ambito del lavoro. Si tratta di discussioni di oltre un ventennio fa, no? Siamo partiti da lì, quando vennero introdotti tutti quei dispositivi di precarietà ex legge, e dunque il divenire donna del lavoro ci sembrò interessante per indicare un processo, no, legato al capitale e alle sue trasformazioni. Tu Roberto sei stato completamente immerso dentro queste discussioni quanto me, quindi insomma, no? Grazie alla leva della precarietà generalizzata che si è trasformato in un elemento strutturale del capitalismo contemporaneo, quel lavoro che diventa donna, vale a dire quella frammentarietà della prestazione e quella complessità della sussunzione che le donne hanno sperimentato nel corso di svariate epoche sul mercato del lavoro, finisce per diventare un paradigma generale, no? Quindi, a proposito qui, quindi prescindendo dal genere, no? E per questo tu dici a un certo punto che hai scritto questo libro: il maschile e il femminile, i loro conflitti sono presi nello stesso divenire. E io in realtà lo ritrovo dentro il mio tentativo, no, di dire, cioè, adesso lungi da me pensare al neutro, no, ma è chiaro, però, come dire, ci siamo capiti. Non c'è l'emergere una presunta natura femminile, no? Ma effettivamente un utilizzo di elementi che vengono sollecitati perché ritenuti utili per il capitalismo. Ed è evidente ancora una volta che questo processo di oppressione, integrazione di un capitalismo capace di antropomorfizzarsi e di catturare propensione e sentimenti e di aprirsi potenzialmente a tutti, poiché costoro dimostrino tutti disponibilità a farsi inglobare dal discorso del potere, una sorta di democrazia del capitale, ho detto una volta, e poi mi sono resa conto che forse era un po' ingenuo questo mio modo di pensarla, non lo so. Vabbè, sono ripensamenti che ho nel tempo. Comunque apre, secondo me, da un altro lato, quei nuovi sguardi, no? Sul lato irriducibile, eccedente, che non si piega nonostante tutto, no? Nonostante tutto questo, no? La presunta democrazia del capitale che ci prende tutti, non fa distinguo, sembra, no, appunto essere disponibile a forme di integrazione, e però deve fare i conti con noi, penso, spero, almeno continuo a volerlo pensare. Il tuo libro mi aiuta a pensarlo. E quindi un'idea di connessioni globali che ci aiutano a esercitare pressioni e a distrutturare i nodi strategici del potere. Allora, questo divenire donna della politica, perciò non è perché le donne sono più buone, più genuine, più pure, no? In politica, a proposito anche di una discussione di sabato scorso con alcune incomprensioni, ma perché per cercare di delineare i contorni della nuova soggettività nel lavoro e nella vita dobbiamo partire dall'osservare che non solo la classe unica e omogenea, ma anche il genere, inteso solo come un'essenza, una natura, una conformità, non esistono. E in questo senso si può parlare di un prendere corpo biopolitico della moltitudine, ovvero di una versione riveduta e corretta della ricomposizione di classe. No, proprio inaspettatamente al cuore delle mosse del postmoderno, tutte tese a istituire le più feroci leggi individualistiche, troviamo una rappresentazione radicale di connessione, no? Se e altro perdono le loro qualità razionalistiche e oppositive e diventano un gioco di letture e risposte in parte riflesse l'una nell'altra, no? In questo divenire donna, divenire minore. Chiudo qua. Roberto Ciccarelli nella parte finale di questo libro ci consegna, no, un po' i processi, i tentativi di appropriazione, le piegature, i cliché che seguirono le letture del pensiero di Deleuze e Guattari, anche tentativi di distinguo tra i due. Quindi un ampio spettro, dici tu, di letture ontologiche, dogmatiche e acritiche, il cui fine è stata la spoliticizzazione di un pensiero legato alla prassi e alla critica del capitalismo. Quindi qua siamo, no? Questo è l'operazione che fa, e quindi è quella di riconsegnarci l'Antiedipo e Millepiani dentro i loro obiettivi reali, no? Di partenza, la critica alla catena di sfruttamento basata sull'invisibilizzazione del lavoro delle donne, sull'alienazione della loro autonomia, sei tu che parli, e sul potere sessuale sui loro corpi. Critica anche alla soggettività intesa come un blocco unico, ad esempio quella dell'operaio maschio, dici tu, no? Portatore di pane a casa. Ok. E qua mi viene da allora da chiederti, no, perché Deleuze e Guattari generano tutta questa inquietudine, Roberto? No, e perché tanto antiintellettualismo, come si domandava Tiziana? Perché il pensiero fa così paura, detto che ne abbiamo così tanto bisogno? No, e appunto, quando stiamo insieme, pensiamo insieme, ci sentiamo anche meglio fisicamente, non so, no? Quindi ci fa bene anche al fisico. La rivoluzione passiva neoliberale in fase autoritaria ha tanta paura del divenire rivoluzionari che tu ci riconsegni, e che è sempre possibile. Grazie Cristina. Io direi che adesso passiamo la parola a Roberto, che è stato interpellato in diversi passaggi, numerosissimi, e non sono neanche tutti. E poi chiaramente il piacere per tutti sarebbe quello di poter scambiare insieme, no, un po' di interrogazioni, di riflessioni, in maniera molto libera. Grazie. Grazie a tutti e a tutti, grazie Tiziana, grazie Cristina. Io non è una presentazione per me di rito, oltre perché siamo in questo posto, per me è importante e magico, ma perché siamo legati non solo da un'amicizia e un sodalizio politico e culturale risalente, ma perché devo sia a Tiziana che a Cristina questo libro e questo titolo. Mi spiego. Tiziana, il lavoro filosofico di Tiziana su Deleuze e Guattari, sia nei tuoi libri che nella rivista che tra gli altri hai creato insieme a Ubaldo Fadini, non a caso intitolato Mille Piani, dal titolo di uno dei più famosi libri di Deleuze e Guattari, per me, quando li lessi, e continuando, li ho riletti per scrivere questo libro, beh, per me è stata una delle porte di accesso a un pensiero complesso, ma magnetico, pensiero rivoluzionario che ho cercato qui dentro, come nei testi e nelle relazioni, tra l'altro anche con diverse persone presenti in questa sala stasera. Con Cristina è un po' sostanzialmente, l'ha detto lei, lo voglio ribadire, l'idea, il concetto sostanzialmente che inizia ad aggirarsi nelle pagine sia di Deleuze che di Guattari del divenire rivoluzionari, io l'ho rintracciato a partire da una data per noi in Italia piuttosto importante dal punto di vista politico, di movimento, di storia della politica, dei movimenti, il 1977, nelle conversazioni tra Deleuze e Claire Parnet, pubblicate in Italia da Ombre Corte. Lui inizia a fare proprio la teoria del divenire rivoluzionario nel momento in cui lui sta in Francia, che è un altro, vive in un altro ciclo storico, la politica, dove c'erano ugualmente molti movimenti di diverse tipologie, però non paragonabili a quello che c'era in Italia, a cominciare da Milano nel 1977. E lui riflette sulla crisi o il fallimento del nuovo tipo di rivoluzione che Deleuze e Guattari, in altri termini, avevano già riconosciuto nel 68, non inteso come movimento solo studentesco, ma come movimento inequivocabilmente che ha cercato un'alleanza tra studenti e operai. E già questo cambia. Scusa. Spero che si sia sentito almeno quello. Adesso dovrebbe andare meglio. Sì. A questa decisiva prima tesi su che cos'è il divenire rivoluzionario, si ridiventa rivoluzionario nonostante contro i fallimenti delle rivoluzioni, per una definizione ipersintetica di cosa dice Deleuze in questo fondamentale scambio. Sono decine di pagine in realtà nelle conversazioni con Claire Parnet. Se ne aggiunge un altro che c'è anche in quel libro, ma che viene sviluppato in due testi fondamentali: Il divenire donna, un saggio di Guattari, contenuto nel libro La rivoluzione molecolare, uscito non a caso in Italia e in Francia nel 1978, esce contemporaneamente in Italia 1978, perché come molti di noi sappiamo Guattari era molto presente, molto vicino ai movimenti italiani, in particolare al movimento dell'autonomia operaia, e non solo, in tutte le espressioni del movimento del 77, dei movimenti in Italia, tant'è vero che arriva anche a criticare c'è un saggio pubblicato su una rivista che credo conosciate ampiamente, Metropoli, nel 1981, arriva a criticare, a sollevare, a alcuni dei problemi fondamentali che l'autonomia stessa in quel momento difficile, ma anche negli anni precedenti, si era posta, cioè come si fa ad affrontare, a coniugare sempre diversamente l'antagonismo di classe, cioè il due che si confligge, capitale e lavoro, con la necessaria pratica di costruzione dei movimenti che sono di per sé plurali e divergenti. Adesso c'è un rimbombo, forse. Mi sentite? Perché sono io che non mi sento. Forse così. Questa era una delle osservazioni che Guattari faceva in questo saggio, poi ripreso nella Rivoluzione Molecolare, in diverse edizioni Rivoluzione Molecolare, questo per dire della sua internità anche al movimento italiano. Guattari era un militante rivoluzionario globale che andava dal Brasile al Giappone, passando dalla Germania, con un amore particolare per l'Italia. I movimenti degli anni 70 sono stati da lui descritti come i più promettenti e più ricchi in Europa. Lui ragionava in termini globali già negli anni 70. Terzo luogo, il collegamento tra divenire donna e divenire rivoluzionario, che viene fatto in Rivoluzione Molecolare, ma soprattutto nel libro chiave che è Mille Piani. Cioè, un libro immenso, proliferante, che non si finisce mai di leggere e rileggere, perché offre sempre nuove piste, nuove linee di fuga rispetto al presente in cui lo leggi. E questa connessione è fondamentale, per le ragioni che ha detto poc'anzi Cristina. A questo aggiungerei, per me è stato illuminante leggere questa, che è già una teoria molto importante, se vista con i nostri occhi di oggi, con la crescita dei nuovi femminismi, a cui l'opera di, a una parte di questi femminismi, l'opera di Deleuze e Guattari è stato veramente fondamentale, anche perché tutte, soprattutto in ambito anglofono, c'è una riflessione a più riprese che ha conosciuto diverse stagioni, sia critiche che di innovazione, che è partita proprio dal nesso divenire donna. Donna si diviene, non si nasce, come diceva sostanzialmente la tesi di Simone de Beauvoir, che è stata ripresa in questo caso da Deleuze e Guattari e sviluppata in questo enorme dibattito anglofono, che ha alimentato poi tutti i movimenti sociali, anche femministi, che hanno varie ispirazioni, però se considerate dal lato di Deleuze e Guattari e della ricezione della loro opera, risuona fortemente nella storia contemporanea di questo tipo di movimenti. Ora, vorrei sottolineare che per la generazione di Deleuze e Guattari, nati negli anni 20, era tutt'altro che scontato sostenere negli anni 70 questo tipo di tesi. Cioè, veramente, qui non sto a ricordare i rapporti molto forti tra sia Deleuze che Guattari con il movimento omosessuale francese. Cioè, ci sono testi e recensioni, saggi brevi e grosse riflessioni scritte sia da Deleuze, e grandi riflessioni sempre contenute nell'ultima edizione, purtroppo non pubblicata in Italia, di Rivoluzione Molecolare, che è un libro di 600 pagine che raccoglie sostanzialmente tutti i grandi scritti di Guattari, dove è possibile trovare anche questo aspetto. Ecco, per la generazione nata negli anni 20, grande innovatore e creatrice di concetti, di grandi pensieri politici e filosofici, non era affatto scontato sostenere queste tesi, anche perché il rapporto tra movimenti e femminismi, a cominciare dall'esperienza italiana, non è mai stata giustamente pacifica, ma talvolta profondamente conflittuale. questo è un elemento di grande originalità e potenza che, se considerate oggi, è molto importante. Il concetto di divenire donna del lavoro, che ho ripreso dal pensiero e dalla ricerca di Cristina, mi ha fatto risuonare, mi ha fatto rivedere tutto questo percorso che vi ho sinteticamente ricostruito così a braccio, mi ha fatto capire, innanzitutto stiamo parlando della produzione di soggettività di natura capitalistica. Il divenire donna del lavoro significa l'integrazione delle donne intese come forza, nuova forza lavoro della riproduzione sociale dentro i cicli di capitale. Ma anche c'è sempre questa duplicità nel tuo concetto di divenire donna del lavoro, che è la duplicità marxiana, grande figura della dialettica marxiana. Sì, c'è il momento della sussunzione, ma attraverso l'organizzazione c'è anche il momento, o perlomeno la ricerca della rottura di questa macchina che non è mai chiusa in se stessa, ma per sua natura ha bisogno di superarsi e di mettersi in crisi. Chi la mette in crisi può essere anche l'organizzazione, così come è stata nella storia del movimento operaio proprio negli anni 60 e 70, in cui Deleuze e Guattari sostenevano queste tesi con il loro linguaggio, con la loro cultura. Non mi sembra un caso che la prima fortissima ricezione, per tante ragioni diverse, però vista ad oggi, con gli occhi di oggi, ridiscussa a livello storico, non mi sembra sia stato un caso che la loro opera sia stata immediatamente e in maniera detonante recepita in Italia. A cominciare dalle varie componenti anime del movimento, che era sia quella operaista sia quella creativa o desiderante, come la volete chiamare. Quindi stiamo parlando, credo di aver, abbiamo un po' di, mi sembra evidente, stiamo parlando di noi, perché il sottotitolo è Gilles Deleuze, Félix Guattari. E noi chi siamo? Noi siamo, ad esempio, noi qui. E questo è il mio tentativo, è di ripensare questo noi facendo anche questa storia, che mi sembra molto utile. È una storia anche culturale, è una storia politica, è una storia filosofica. L'ultimo capitolo di cui discuteva prima Cristina fa un po' la storia della ricezione, delle ricezioni possibili, preciso, qui non c'è nessun, a meno io non mi sono messo nella posizione del notaio che notifica le interpretazioni autentiche o meno di Deleuze, non c'è un verbo da interpretare, ma delle prassi da creare. Filosofia, che cos'è la filosofia? È la creazione dei concetti. Che cos'è la politica? È la creazione di nuove prassi. Rivoluzionari. Questo per spiegare il perché siamo qui stasera e perché ho veramente sostenuto con gioia e con passione la presenza, ve l'ho chiesto proprio per dirvi un gigantesco grazie. Un altro elemento e poi chiudo, che può servire un po' a inquadrare un libro, sì, diciamolo, senz'altro complesso. Io non ho paura a dire di scrivere libri complessi, perché ci troviamo in una realtà tremendamente complessa. E quindi da qualche parte, a meno chi fa, io faccio di mestiere, questo è il mio lavoro clandestino, il mio lavoro nero. Di mestiere farei giornalista, più o meno giornalista, e mi trovo davanti a una realtà terribile che che mi tocca interpretare, penso come a ciascuno di noi basta vivere in questo tipo di società. L'idea fondamentale di questo libro è di usare come una cassetta degli attrezzi, numerosissimi concetti politici e rivoluzionari, da macchina da guerra, linee di fuga, soggettivazione e tantissimi altri, che non a caso si possa trasversalità, che non a caso ancora oggi in queste e in altre forme talvolta possiamo anche ritrovare nei documenti politici o di analisi che vengono anche dalle nostre comunità. A un certo punto, anche per mestiere, mi sono chiesto un po' di tempo fa, prima che decidessi effettivamente di affrontare questa avventura del libro, ma da dove arrivano queste parole che mi sembra, non so, di trasversalità conosce un relativo ritorno, una nuova riflessione, ma anche nell'uso comune. Trasversalità è un concetto di Guattari, cioè ci ha scritto centinaia di pagine da diversi punti di vista, ha detto ma come arriva, da quali misteriosi percorsi arriva adesso non mi ricordo il testo che stavo leggendo, però ero stato sorpreso, ma Guattari ne parlava di trasversalità, come lo stesso discorso si potrebbe fare per il più noto concetto diverso di intersezionalità. Cioè, c'è una circolazione globale di tipo culturale e politico che unisce appunto trasversalmente ambienti, comunità e movimenti femministi e non, anche altro tipo di movimenti che ci popolano e ci fanno vedere mondi, ci fanno vedere possibilità nuove di relazione. Uno degli strumenti che ho, quello di scrivere, quello della ricerca, mi ha spinto, ad esempio, fatto il caso della trasversalità, ci sono ampie, mi soffermo ampiamente sull'utilità pratica e politica di questo concetto oggi, e per spiegarle, per comprendere, ho dovuto rifare la storia di questo concetto, e l'ho ritrovato in Guattari, così come ho ritrovato riflessioni molto profonde e usi altrettanto, se non di più, diffusi di questo concetto in America Latina. Mi sono appoggiato all'inchiesta che hanno fatto, un libro ancora purtroppo non ancora tradotto, di Dardo de Laval, Institut Le Monde, che è uscito qualche mese fa in Francia, che è costituito in gran parte, perché loro frequentano i paesi dell'America Latina, il Perù, il Brasile, l'Argentina, e sono andati a fare le inchieste dei movimenti femministi, non solo femministi, che ci sono in questi paesi, tutti costruiti, uno dei concetti che usano, concetti pratici, intendo, per l'organizzazione e la creazione di reti e di alleanze, cioè per fare politica, è la trasversalità. Trasversalità di cosa? Se l'intersezionalità è in maniera combinata con l'idea dell'intersezionalità, se l'intersezionalità, diciamo una definizione molto, perdonatemi la sintesi, è il collegamento tra le oppressioni e i domini che costituiscono la soggettività femminile della donna, la trasversalità in questi casi viene usata come modo per attraversare tutte le gerarchie e lo spazio politico che sembra fisso, chiuso su se stesso e ci divide in segmenti hanno una loro specializzazione e che continuano a riaffermare continuamente la loro identità o un'idea preformata di differenza. Trasversalità, almeno nella formulazione che ne ha data Guattari, e poi come viene effettivamente praticamente messa all'opera in questi e altri movimenti, attraverso l'uso molare dominante che ne fa il capitale e il potere, e lo risvolta dall'interno al fine di produrre nuove forme di soggettività, cioè di alleanze politiche capaci di sostenere l'urto e creare nuove possibilità di esistenza, di natura sia di vita che istituzionale. Ora, tutto questo lavoro, vi ho sostanzialmente riassunto il contenuto di questo volume molto ampio di Dardot e Laval, che spero esca anche in Italia, perché è veramente parla di movimenti oggi. Loro poi sono francesi, tutt'al più parlano della Francia, però parlano molto della situazione latinoamericana. E tutto questo nasce dalla riflessione di Guattari, e loro stessi lo dicono. Quindi tutti questi elementi, essendo un libro anche di non solo di politica oggi, ma anche di ricostruzione di una storia culturale vista a partire dal nostro presente, mi sono chiesto: ma come è stato possibile che il concetto di Guattari facesse il giro di questo mondo? E come può esserci utile oggi? Perché è evidentemente utile per noi pensare come essere trasversali saltando i settarismi, gli identitarismi, il fatto che si convocano due scioperi generali a distanza di 12 giorni, nonostante che il 22 settembre, come Robertino prima diceva, ma il 3 ottobre, io l'ho vista a Roma, c'era un milione di persone, ma che credo l'abbiate visto, eravate voi stessi in piazza sulla tangenziale a Milano. Che cosa è successo qui a Milano? Il 3 ottobre era uno sciopero generale chiamato trasversalmente anche dalle e oltre dalle organizzazioni sindacali, che oggi hanno chiamato due scioperi generali a distanza di 12 giorni l'uno dall'altro. Questo è un esempio pratico che dal mio punto di vista non mi permetterei mai di imporne il punto di vista agli altri, però insomma stiamo parlando di questo libro che rivela l'utilità di uno dei concetti che possiamo trovare, la trasversalità, nella cassetta degli attrezzi che Deleuze e Guattari ci hanno consegnato. Avrei tante altre cose da dire, però se mi sembra più utile riflettere in questa prospettiva tra di noi. Grazie ancora. Grazie Roberto. Come vi dicevo prima, sarebbe piacevole, interessante, utile per noi tutti magari esplorare alcune di queste sollecitazioni. Mi permetto solo di aggiungere con Roberto che la ricezione del pensiero di Deleuze e Guattari davvero ha seguito un po' la vicenda di certe egemonie e narrazioni che crollavano dopo gli anni 70, che ritornavano all'inizio degli anni 90, questo che l'anno del centenario di Deleuze, c'è un Deleuze separato in maniera irrimediabile da Guattari. E questo è un segnale davvero molto pesante, perché è un tentativo di inglobare il filosofo accademico dentro un sistema di pensiero ineludibile, ma come dire, togliendolo dal suo progetto esistenziale, oltre che filosofico, oltre che umano, oltre che amicale, da quello che è stato il suo più attivo, anche in questo caso uso la parola complice, che in questo periodo mi piace. E aggiungerei che il discorso che ci lancia Roberto, a mio avviso, nell'oggi va considerato alla luce di quell'avvertimento che Deleuze lanciava sulla comunicazione. Noi siamo in un regime oggi povero di idee. Quattro idee molto chiare, un'economia di rapina estrattiva molto chiara, e quindi però di idee c'è bisogno per fare propaganda. E queste si vanno a rapinare, già pratica per carità vista negli decenni passati, ma in questo momento particolarmente rivoltante, idee decontestualizzate che provengono proprio da quei versanti di pensiero. Tutto quello che è il discorso è esatto, no, sul lavoro precario, sulle soggettività, sui corpi. Una certa destra che manda i suoi a sguinzagliarsi, a cercare qualche microintuizione, le usa. Adesso lascio da parte la gioiosa macchina da guerra di tempi francamente già tristi di per sé, però questo è un altro dei panorami nei quali oggi noi siamo dentro questa maglia di cattura, e forse non siamo ancora, come diceva Roberto nel suo libro, in alcuni passaggi che mi sono piaciuti moltissimo, abbastanza barbari, non integrati. Vi lascio il microfono. Senza timidezze. Vabbè, in attesa. È molto interessante questo riferimento che hai fatto sostanzialmente alla cattura dei concetti e delle tradizioni del pensiero critico e di movimento fatta dal potere che cerca continuamente di creare nuove egemonie. Questa dinamica è il pane quotidiano del capitalismo e della sua logica culturale, come l'ha definita Friedrich Jameson, quella della sussunzione, di cui parlava Marx, ma sussumere ad esempio l'idea di libertà della donna, ma e rovesciarla nel suo posto attraverso uno svuotamento del contenuto reale storico di questo concetto che ha animato magari in un ciclo precedente, in anni precedenti, negli anni, mettiamo, 70, ma tuttora, diciamo, gli ultimi 10-15 anni, ecco, riflette più che sugli anni 70, l'ultima ondata globale del femminismo, non una di meno. Questo meccanismo della sussunzione, del rovesciamento dell'opposto di il concetto di libertà, i concetti di libertà e autonomia affermati con forza sia in chiave antiviolenza maschile che di creazione di una vita autonoma della donna, libera dall'oppressione, dallo sfruttamento, eccetera, è diventato l'oggetto di cattura e di sussunzione da parte del nuovo fascismo, del trumpismo sicuramente, che fa una guerra sistematica ideologica contro la libertà di aborto, cioè, ma che intende rispondere la sua energia fortissima che alimenta quest'odio non solo contro le donne, ma contro le minoranze, contro gli afroamericani, contro gli arabi, cittadini statunitensi di origine araba, insomma, è dovuta al fatto che è una risposta veramente feroce al ciclo di movimenti precedente, Black Lives Matter, non una di meno, che ha avuto negli Stati Uniti altre declinazioni di massa proprio, in cui si usano le parole del tuo nemico, le si svuota, le si rivolta dall'interno, anche perché tu stai sempre in una democrazia, quindi sempre in nome della libertà e autonomia delle persone devi agire, ma agisci concetti che significano materialmente l'opposto. Questa è l'operazione di egemonia fatta da questo tipo di destra, e poi sostanzialmente anche storicamente, anche per quanto riguarda il fascismo storico, c'è una grande ricerca storica che sostanzialmente ha dimostrato che funzionava alla stessa maniera in quanto risposta controrivoluzionaria a rivoluzioni di diversa tipologia, in quel caso il comunismo, che un secolo fa sono state fatte o sono state provate a fare. Oggi è la stessa cosa. Deleuze e Guattari cosa c'entrano? C'entrano e come? Innanzitutto perché soprattutto negli scritti politici, questo è un libro che propone non solo l'analisi dei grandi libri, dei quattro libri che hanno scritto insieme, ma riproponere una lettura politica del nostro presente alla luce di quanto loro hanno scritto negli articoli di intervento politico o negli interventi che Guattari faceva al convegno contro la repressione a Bologna nel settembre 77. Cioè, basta andarsi a leggere questi testi. Ma sono analisi del ciclo di capitale, della repressione, ma anche delle potenzialità di quei movimenti, oltre che analisi proprio letteralmente, come si diceva un tempo e forse tuttora, di classe, che sono stupefacenti. Da qui il marxismo del tutto evidentissimo, che di centinaia di pagine scritte su Marx, su Capitale di Marx, l'Antiedipo e Mille Piani, cioè, sembra un commento interlineare, sono stati veramente in pochi a riconoscere. Ora, la dialettica che della sussunzione che ho appena descritto in termini culturali e politici, prendo un concetto del mio avversario e lo uso, però lo risignifico completamente a tal punto o di neutralizzarlo al fine che il mio avversario dica le parole e sia inaudibile. Lui è totalmente screditato, anche se parla di libertà, di autonomia, eccetera, non ci crede nessuno, tantomeno lui. E questo è uno dei tanti effetti della costruzione di un'egemonia politica. Questa idea di rovesciamento e opposto, che è uno degli aspetti della sussunzione di cui già parlava Marx per quanto riguarda la dialettica della merce e della forza lavoro nel conflitto con il capitale, viene declinato in maniera originalissima sia nell'Antidipo che in Mille Piani da Deleuze e Guattari, e sta qui il loro marxismo, che gli serve a descrivere sia le trasformazioni del capitalismo negli anni 70, come a preannunciare quelle future negli anni 80-90, ma in realtà per tante ragioni ancora attuali. E ci serve soprattutto a noi oggi per riconoscere che come si è costruito l'egemonia della destra globale, che è poi plurale, sono tante destre, c'è tutta una grande discussione, se volete lo approfondiamo, su che tipo di fascismo sia o se non lo sia il trumpismo. Ecco, tutta questa logica, noi, questa è un'altra delle tesi del libro, noi la possiamo capire leggendo Deleuze e Guattari o rileggendo. Così come possiamo affrontare spalle robuste anche la non semplice discussione, ma fondamentale a mio parere, su che tipo di fascismo sia il trumpismo o se non lo sia. Così come in terzo luogo possiamo finalmente iniziare a intravedere la possibilità di uscire una delle antinomie che dominano il discorso politico, perlomeno mainstream, democrazia liberale contro democrazia illiberale, che sostanzialmente fonda in gran parte il palinsesto del discorso politico, non solo mediatico ma anche televisivo, ma anche sui giornali, ma che alimenta anche la polarizzazione politica nella quale si organizza il nostro stesso spazio politico e da cui noi stessi cerchiamo di sottrarci quando parliamo di guerre. Ecco, anche questo aspetto per capire il fascismo contemporaneo e i fascismi contemporanei e in che termini si distinguono dal fascismo classico storico e quale sia soprattutto il rapporto tra questi nuovi fascismi che Deleuze e Guattari definiscono fascismi molecolari o microfascismi di diverse tipologie. Che tipo di rapporto abbiano questi fascismi molecolari, ad esempio, con l'idea di democrazia e di liberalismo, che è un problema classicissimo nella storiografia del fascismo. L'opera di Deleuze e Guattari è veramente fondamentale, soprattutto, cioè, se parliamo dell'attualità, parliamo della discussione molto interessante che prosegue per evidenti ragioni da diversi anni. Che cos'è il nuovo fascismo e se si può oggi parlare in che termini di fascismo. ecco, Deleuze e Guattari, ma, cioè, sia Anti-Edipo soprattutto, ma anche Millepiani, ma i saggi sia dell'uno che dell'altro, che hanno scritto da soli di intervento politico, beh, sono letture fondamentali che ci servono a capire l'oggi. Perché se non capiamo, questi sono francesi, ragionavano come Bergson, e Bergson ragionava come Marx, se non capiamo il problema che abbiamo davanti, non abbiamo alcuna idea della soluzione, delle soluzioni possibili da adottare. Ecco la funzione anticrisi e critica di rileggere oggi, secondo una filologia vivente, il pensiero di Deleuze e Guattari, attento sia al rigore che alla sua rigorosa applicazione nel presente politico. Vi lascio la parola, vi prego, osate. Prego, vieni. Chiedo cortesemente di venire qui perché... No, intanto vi ringrazio molto per questo... questa presentazione. Sono Lorenzo, mi piace molto la filosofia di Deleuze, ma come diceva giustamente Tiziana, mi tocca molto il fatto che stasera si sia parlato di Deleuze e Guattari, cioè si siano congiunti questo blocco, chiamiamolo così, perché poi credo che Deleuze amerebbe la parola blocco, questo blocco unico che hanno formato. E di fatto la mia domanda voleva essere un po' su quale fosse stata, perché io non sono al corrente delle circostanze del loro incontro e di come sia anche importante ciò che hanno scritto appunto di saggistico, non strettamente dunque legata all'attualità, ma dunque anche penso a Qu'est-ce que la filosofia o i libri che hanno scritto assieme. E trovo che le ultime considerazioni politiche su come ci sia adesso un svuotamento dall'interno dei concetti, effettivamente sono veramente un antidoto, questo libro, specialmente su che cos'è la filosofia, proprio perché ci aiutano a costruire proprio l'emergere del concetto nel suo divenire, diciamo. E dunque volevo sapere solo questo, se c'è stata una scintilla che ha fatto sì che loro si incontrassero, quale fosse stata. Velocissimamente, è una storia politica la loro amicizia. Loro si incontrano per varie circostanze, probabilmente per amicizia comune e perché sicuramente si erano letti precedentemente. Nel 69 si trovano molto simpatici, sono sempre dati del voi. Sento che parli molto bene il francese, quindi puoi sapere cosa significa darsi voi in Francia, però è un motivo politico quello che porta a creare questa amicizia filosofica stellare, la crisi del 68. Cioè, loro si incontrano nel 69, Deleuze stava purtroppo male, molto male nel 68, quindi non ha potuto attivamente partecipare al maggio a Parigi. Guattari sì, Guattari è uno degli uomini della macchina del movimento 68 parigino. Cioè, di solito si parla con Bendy, 22 marzo, e poi le officine Renault. E Guattari era quello che collegava le cose, perché ha una storia politica legata al trotskismo, comunque al comunismo libertario francese, che è molto forte, ha una grande tradizione in Francia, che poi lo sostanzialmente portato a senz'altro a distaccarsi dalle tradizioni trotskiste francesi e sicuramente ad assumere posizioni critiche molto dure contro il settarismo, il gruppuscolarismo, che è un suo concetto, dei gruppi che sono formati dopo il 68. Però il motivo fondamentale politico che sostanzialmente giustifica anche l'esistenza di questo mio libro, perché è questo che a me interessava, loro capiscono subito nel 69 che il 68 è in crisi o ha fallito, perché come dice Sergio Bologna e come dice, ho trovato anche un riferimento alla tua definizione splendida, Sergio in Guattari, in Rivoluzione Molecolare lo potete trovare, il 68 in Francia è durato 2 settimane, Sergio Bologna ha aggiunto il 68 in Italia in varie forme è durato 10 anni, probabilmente anche un po' di più, però insomma, sicuramente 10 anni. E loro cosa fanno? E beh, vedono già nell'Antiedipo, ma Mille Piani da questo punto di vista parla di oggi, l'ultimo capitolo, diciamo l'ultimo piano di Mille Piani parla del capitalismo oggi. Loro cercano nuove armi, un nuovo pensiero contro la reazione neoliberale che inequivocabilmente hanno già visto nel 1972 con l'Antiedipo. Ecco, è esattamente questo che non, credo non solo a me, perché insomma, tutti i movimenti c'è un bisogno e un desiderio, se parliamo di Deleuze e Guattari, secondo me diffusissimo e di massa, cercare un'altra spiegazione di ciò che viviamo e abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni e di ciò che stiamo vivendo oggi, perché poi alla fine è il risultato di questa controrivoluzione neoliberale che è diventata sistema e oggi sta in tutta evidenza trasformandosi in nuove istanze, sta alimentando nuove istanze autoritarie. Quindi è molto importante la ragione per cui si sono incontrati è perché hanno scritto 4 libri, di solito nella ricezione di Deleuze, per non parlare di quella di Guattari. Si elidono completamente 4 libri fondamentali per cui sostanzialmente li conosciamo, questi due. Cioè, perché parlavano di cosa? Di politica e da che punto di vista? Rivoluzionario alla luce di questa lettura storica o critica della politica e del capitalismo. Questo è molto importante perché ci fa, oddio, qualcuno potrebbe dire non ne avevamo bisogno, e beh, ma è meglio ribadire, ci fa capire attraverso la lettura di queste opere il clima culturale che ha accompagnato sostanzialmente conservatore e reazionario la controrivoluzione neoliberale negli ultimi 50 anni. Ecco, l'altra idea di questo libro è rileggere questo che è un tema molto importante attraverso questi due attori della rivoluzione che non hanno mai smesso, con un straordinario talento creativo, che bisogna essere anche artisti dei concetti del pensiero come hanno fatto loro, cioè basta leggere veramente 10 pagine di Mille Piani, vi accorgete che questi stavano in un'altra dimensione. Ecco, l'idea mi è sembrata utile e interessante di ripercorrere questa nostra storia, in questo nostro presente attraverso questa filosofia folgorante. Ti chiederei, Roberto, se posso, perché abbiamo trascurato un concetto fondamentale fino ad ora, desiderio e fascismo, desiderio e rivoluzione. Il desiderio nei nostri amici ha avuto una centralità che forse è stata, no, il motivo per cui, accolti nei movimenti della contestazione giovanile, quella che rompe l'alleanza poi a un certo punto con la classe operaia, perché in Italia quel decennio questo descrive, riprende, magari in una maniera un po', però che indica una tensione. E di che? No, scusate voi se non... Vabbè, però come vedete è un pensiero in movimento. Sì, giustamente desiderio è uno dei concetti cardine, giustamente è stato l'opera comune di Deleuze e Guattari, è stata incasellata in una idea di filosofia del desiderio desiderante, cioè, è stata anche ampiamente, come dovrebbe essere noto, oggetto di stigma culturale, che è nato subito sostanzialmente dalle forti reazioni in Francia che si registrarono subito all'uscita dell'Antedipo nel 72. L'Antedipo, fra le tantissime cose che è un libro antifascista, un libro sulla rivoluzione oggi, un libro che rilancia una certa idea inclassificabile del 68. Non a caso l'Antedipo, nel momento in cui viene tradotto in tempi record, perché è veramente un libro molto complesso, nel 75 in Italia fa un botto proprio, cioè credo che abbia venduto probabilmente più copie che in Francia, perché con i circoli del proletariato qua a Milano, con i movimenti che si stavano riorganizzando e che circolavano eccetera, entra in risonanza non solo con Bologna e con Bifo, ma entra in risonanza con quella composizione sociale della forza lavoro che si ribellava alla fabbrica, si ribellava alla precarietà e cercava proprio strumenti per reinventare il mondo, anche concettuali e filosofici. Tanti strumenti, c'era la musica, cioè, adesso non sto qua a rifare. Che cos'è questo desiderio? E poi è diventato oggetto di stigma. La sinistra desiderante, la sinistra anarcoide, oggetto di stigma già nel 77-78, nel momento in cui questi due iniziano a firmare insieme a Sartre, più o meno con Foucault e con tanti altri intellettuali francesi, appelli contro la repressione dei movimenti in Italia. Facendo, basta rileggerseli, io me li sono riletti questi testi, sono numerosi, non sono solo due, sono almeno sette, me li sono riletti rileggendo Diritto e ragione di Luigi Ferraioli, che è uno dei grandi capolavori di Luigi, uscito nell'89, dove rifà tutta la storia della legislazione d'emergenza contro i movimenti sociali in Italia dal punto di vista del diritto. E descrive la crescita, proprio dal punto di vista delle leggi, le due leggi reali e poi tutti i decreti, eccetera, le pratiche di polizia del diritto, la trasformazione del processo. E, leggendo le numerose pagine che Ferraioli dedica a questo, Ferraioli in quegli anni insieme a Rodotà, Rossana Rossanda e tanti altri magistrati democratici e comunisti furono i protagonisti del movimento a sostegno dei movimenti repressi e arrestati. Giusto per precisare, come Guattari e Deleuze. Ecco, per farla breve, poi se volete ci possiamo andare più nel dettaglio e ricostruire i momenti, i concetti, eccetera. È bastato questo che subito tra il 77 e il 79 per cambiare completamente la ricezione di Deleuze in Italia, a cominciare dalle università. E la cosa è, la filosofia del desiderio è diventata, cito quasi alla lettera un famoso saggio uscito su Autauto di Massimo Cacciari, che all'epoca era, diciamo, un indipendente del PC, per diventare oggetto di stigma e di spoliticizzazione, di stigmatizzazione di questa filosofia che si intendeva usare contro quei movimenti, in risonanza con tutto un apparato molto complesso, sia mediatico che giuridico, di repressione. È una storia veramente molto complessa che io nel libro ricostruisco, fra l'altro, a partire da Deleuze e Guattari. Il desiderio, in questo caso, è stato un concetto del tutto equivocato. Non c'è nulla di più lontano dall'idea di uno spiritualismo anarchicheggiante di tipo romantico, sostanzialmente attribuito a questa filosofia dell'irrazionale, che sarebbe stata quella di Deleuze, basta leggere i saggi politici di Guattari per accorgersi di una critica durissima sia al settarismo che allo spontaneismo. Ci sono pagine formidabili di Guattari da questo punto di vista, che ragionava a ragion veduta. E da questo punto di vista vi invito, ho visto che Eterotopia in Francia ha ripubblicato Desiderio e Rivoluzione, questo dialogo formidabile tra Bifo e Guattari fatto a Bologna nel 77, che ci fece un libro curato a Paolo Bertetto all'epoca, sì, e che andrebbe anche ripubblicato in Italia perché è di difficile reperimento, non si trova più. Adesso ce l'abbiamo in francese, però uscì in italiano. E beh, vi accorgete che Guattari propone la stessa, una critica molto simile a Bifo. Cioè è veramente impressionante come già negli anni loro reagissero a questa classificazione che sentivano arrivare sostanzialmente dagli ambienti del PC, degli intellettuali del PC. E avevano chiaramente avvertito, poi il dialogo è ricchissimo, molto animato, molto anche polemico fra i due, però ci sono dei passaggi proprio in quel dialogo di Guattari dove lui è pienamente cosciente di queste dinamiche culturali e politiche viste dall'interno del movimento 77, cioè è veramente impressionante. Ecco, la filosofia del desiderio è stata tolta dal suo contesto, è stata spoliticizzata, è stata deculturalizzata, perché sono completamente ignoti i legami proprio concettuali tra il desiderio, come lo dicono loro, e tutta la filosofia francese, da Courbet che reinterpreta Hegel, e in che cosa si distanzia molto fortemente l'interpretazione di Deleuze e Guattari. Cioè, si perdono di vista i grandi concetti della filosofia, i grandi dibattiti che loro hanno preso e hanno portato al centro della vita politica. È stato estetizzato. Estetizzato, ci sono tanti processi, veramente è molto interessante la vicenda anche di Deleuze e Guattari da questo punto di vista. E desiderio che cos'è? Il desiderio è ciò che produce il reale, il desiderio è ciò che alimenta il capitale, ciò che lo sovverte. Il capitale ha reso oggetto il desiderio di appropriazione, sfruttamento, eccetera, eccetera. Però il desiderio, in quanto, sto molto semplificando, produzione del reale, non si limita al sistema che su di esso costruisce il capitale. Ma questa non è un'opzione della buona volontà. Questo lo dice Marx, non parlando esattamente di desiderio, a proposito della dialettica tra forza lavoro e capitale. Marx non è semplicemente il teorico della sussunzione, ma è anche il teorico pratico della liberazione o della rivoluzione, a partire da questa dialettica. Ebbene, questa dialettica, anche se ripercorrete l'opera di Deleuze e Guattari dal punto di vista del concetto di desiderio, la dialettica marxiana è pienamente presente. Già dall'Antiedipo loro descrivono il problema del desiderio, che è ciò che produce il reale, cioè quindi un'affermazione addirittura ontologica, in termini marxiani, cioè il desiderio sociale prodotto dal capitale, desiderio rivoluzionario prodotto dalle soggettività che noi possiamo creare attraverso la costruzione di alleanze, relazioni e tutto quello che abbiamo detto prima. Stiamo parlando dell'oggi, cioè loro ci danno proprio gli strumenti sia logici che pratici per comprendere il problema che abbiamo oggi. Sergio, dai, ti prego, se non ti posso registrare c'è lo streaming. Non arrivo più, che aprirà mondi. Per cortesia, vieni qua. No, non ho letto il tuo libro, speravo di trovarlo qui, ma lo leggerò naturalmente, anche perché io sono molto ignorante su questa cosa qua. Però nelle vostre presentazioni mi sembra che manchi una figura che secondo me è importante, Foucault. Puoi dirci qualcosa o sono io che sono fuori tema? Hai ragione però, è vero. c'è un perché. Eh beh, beh, perché ci sono tante cose da dire e ci perdiamo anche i fondamentali. No, Foucault attraversa tutta l'opera di Deleuze e di Guattari e viceversa. Deleuze e Guattari attraversano perlomeno una parte, no, più parti dell'opera di, del pensiero di, Deleuze, di Foucault. Lo è direttamente perché Foucault scrive diverse recensioni a diversi libri di Deleuze, recensioni veramente geniali. Ne cito, vabbè, la più famosa è quella che ha circolato giustamente, soprattutto in Italia, la recensione all'Antiedipo. No, quella è differenza. Oddio, quello, sì, la prefazione all'edizione. Su questo sostanzialmente che definisce, adesso oddio c'è un vuoto di memoria, definisce l'Antiedipo come un libro antifascista, dove c'è tutto un decalogo su come non evitare di diventare fascisti. Cioè, adesso non mi ricordo come sta, perché mi ricordo è un titolo messo in Italia a un saggio, recensione, prefazione, l'edizione americana, che banalmente si chiamava prefasso, per cui, però è geniale, no? Foucault è stato molto importante per, ed è lo è oggi, per capire la filosofia di Deleuze, perché ha fatto un'altra recensione che si chiama Theatrum Philosophicum, a differenza e ripetizione, che secondo me, insieme a Essere e Tempo di Heidegger, in particolare, ma non solo, è uno dei libri più importanti della filosofia del Novecento, in cui dà una serie geniale, secondo me, di indicazioni per capire veramente a fondo una filosofia sicuramente complessa, che pretende giustamente grande attenzione. E ha spiegato sostanzialmente cosa significa differenza e ripetizione dal punto di vista della storia. Differenza e ripetizione, per chi è un po' pratico di studi deleuziani, è interpretabile indubbiamente dal punto di vista di una filosofia ontologica, di una filosofia post-kantiana, in tanti modi diversi. In questa, per dire la vicinanza strategica tra Foucault e Deleuze e l'intelligenza filosofica in atto, beh, Deleuze, Foucault dice: no, guardate, differenza e ripetizione, grandi concetti della metafisica occidentale, non vanno rinchiusi nell'idea di metafisica occidentale, ma vi sta parlando di una dialettica della storia. La storia si dà nella ripetizione, una ripetizione che non è mai uguale a se stessa, ogni volta che accade differisce sempre di un po' rispetto a quella che è già accaduta. Tra l'una e l'altra nasce il nuovo, può nascere il nuovo, che può essere sia il tremendo sia il rivoluzionario. In estrema sintesi, un'interpretazione di questo tipo, di questo grandissimo libro della filosofia del Novecento, che era la sua tesi di dottorato. Vabbè, poi in Francia la tesi di dottorato si fa 50 anni, però insomma, o si faceva 50 anni, forse è ancora tutto. Però insomma, per dirvi, Foucault stesso, soprattutto il Foucault critico del potere e dei poteri, critico dell'idea del potere inteso come entità organica spietata che condanna la vita sotto il suo giogo e la schiaccia, una rappresentazione moralistica o essenzialistica del potere assoluto di tipo monarchico. Foucault, come è noto, rompe questa idea e, a partire da Sorvegliare e Punire, innova l'idea stessa di potere intesa come relazione e produzione. Poi ci sono varie altre derivazioni del suo lavoro sull'idea di potere. Bene, questa idea è fondamentale per capire sia il lavoro comune di Deleuze e Guattari, in particolar modo già nell'Antiedipo, perché Deleuze nella sua prefazione e recensione se ne accorge che questi stanno parlando con lui, ma già si parlavano fra di loro, e dà un'interpretazione formidabile di quel libro, questo è un libro antifascista che ci capisce che contro il fascismo bisogna creare nuove maniere di vivere, e fa un decalogo. Non essere, insomma, adesso lo riporto pure nel libro, ma sì, adesso sì, ma c'è. Allo stesso tempo, come è noto, avevano anche divergenze sui concetti, ma che secondo me andrebbero relativizzate. Foucault parlava dell'idea di piacere e non discuteva criticamente l'idea di desiderio di Deleuze e Guattari. Ho ritrovato un grandissimo saggio di Guattari su Deleuze, risultato di una conferenza che fece non a caso a Milano nel 1985, in un grande convegno che ricordava un anno della morte Foucault, e lo si fece, cioè Feltrinelli fece anche un volume molto importante che contiene anche saggi molto importanti su Foucault, che hanno creato un certo tipo di ricezione molto avanzata di Foucault in Italia. E in questo libro, L'effetto Foucault si chiama, c'è questo saggio veramente importantissimo di Guattari che discute, relativizza la differenza tra piacere e desiderio, e dice la cosa più importante in Foucault, come in noi, è la politica. E il nostro problema è come creare una nuova soggettivazione diversa e opposta a quella neoliberale. Siamo nel 1985. Guattari pubblica in quello stesso anno, non so se l'aveva già pubblicato nel maggio 1985 in Francia, un libro fondamentale di saggi politici, non a caso intitolato Gli anni d'inverno. Siamo nel cuore della reazione neoliberale negli anni Ottanta, nel cuore della Milano da bere, lui viene a fare questo discorso e identifica il problema comune, ma non solo a Deleuze, Guattari e Foucault, il problema comune a noi. Oggi non è molto diverso, perché abbiamo sempre lo stesso problema e le soluzioni che abbiamo trovato non sono all'altezza del problema. Questa è una tipica tesi marxiana che potete trovare in tutte le salse, sia nell'opera di Deleuze che di Guattari. Loro, anche perché l'ha ripresa Bergson, come noto Deleuze ha scritto parecchio su Bergson, persona ha influenzato un certo tipo di filosofia in Francia e ha riflettuto a lungo sul problema del problema, anche in termini marxiani, quindi trovate in continuazione, ebbene, un'altra delle tesi di questo libro è che cos'è questa idea del problema, del problema storico della discontinuità e, se volete, quindi della rivoluzione. Il problema è quello di porsi con gli strumenti adatti del pensiero come dell'azione il problema che viviamo e trovare soluzioni all'altezza. Questo era una tesi che loro hanno, Deleuze e Guattari, riproposto ovunque, che giustifica anche il fatto che sono messi a scrivere insieme libri formidabili, ed è lo stesso problema che affrontiamo noi oggi. Quando riflettiamo su cosa è successo il 22 settembre o il 3 ottobre, e perché è successo così? Certo, solidarietà a Gaza, popolo palestinese, eccetera, ma in quelle proporzioni, con questa cosa che appare così, poi non appare, perché voi per primi a Milano siete testimoni di un accumulo di esperienze, di forze, di questioni aperte ancora legati alla guerra a Gaza e alla necessità di dare solidarietà al popolo palestinese. Quindi non è che è nata così all'improvviso, però certo in quella proporzione. Deleuzianamente, guattarianamente, quel tipo di eccedenza ci dice il problema e ci dà anche il compito di cercare delle soluzioni, banalmente per riprendere il filo interrotto in quelle giornate. Grazie. Prego, basta che veniate qua. Sì, no, io mi sono preso vari appunti, la ringrazio molto per l'intervento e per la relazione. Ah, scusatemi. No, stavo semplicemente ringraziando l'autore, che fra l'altro io seguo quotidianamente sul Manifesto. Allora, un attimino, la definizione di desiderio, diciamo, mi ha scaturito, diciamo, qualche riflessione anche nel confronto con un altro autore, Lacan, ovvero qui il desiderio viene definito non come mancanza, ma come ciò che produce il reale che è, diciamo, distinto in un certo senso dalla realtà. Ok, allora no, riformulo poi magari. Non a caso un lapsus. No, e però ecco, in ogni caso il desiderio come mancanza, ma anche, diciamo, desiderio effettivamente come... diciamo, pone in un certo senso l'inconscio in una sorta di linguaggio, no? E questo movimento che effettivamente diciamo, si potrebbe sovrapporre al desiderio come processo in movimento. Ora mi viene in maniera molto astratta da pensare anche alla filosofia del linguaggio di Virno, diciamo, sempre come processo in movimento, qualcosa in movimento. Dove risiede il logos a questo punto? Dove sta, diciamo, un punto di unione della molteplicità? Nella trasversalità? Punto di domanda. Quali sono i punti di contatto, secondo lei, del concetto di desiderio in Lacan con desiderio invece in Deleuze? E qui andiamo nella carne viva delle questioni. Allora, mi correggo, giustamente loro non dicono produce il reale, ma produce la realtà. Il reale, per chi è un po' pratico della filosofia psicanalitica di Lacan, è un concetto lacaniano. Qual è la differenza tra realtà e reale? Il reale appartiene al simbolico, all'immaginario, o comunque a una filosofia dell'assenza, del non dicibile, e la realtà è quella che invece si produce, si costruisce. Quindi stiamo parlando di due cose sostanzialmente diverse, anche se sembrano dire la stessa cosa. Ciò non toglie che il reale si costruisca anche esso, ma per come, poi dentro Lacan ci sono tante fasi diverse, ma insomma adesso non è il caso di fare un seminario lacaniano. Ma nel reale lacaniano c'è sempre un meccanismo che riproduce la mancanza, l'assenza, il passo falso, che poi è l'oggetto stesso di quel tipo di psicanalisi. Nel momento in cui c'è il passo falso, ecco, quello è già significante. Su quello dobbiamo lavorare, sul fallimento, sullo scarto, sull'assenza, perché è lì che la razionalità perde la sua presa. Tu, finalmente, io molli il controllo nevrotico o paranoico su ciò che ti sfugge e inizi a farlo parlare, o meglio, è lui che inizia a farti parlare. Ma da un certo punto di vista, Deleuze, che era relativamente meno interessato a questi discorsi, ma Guattari, che veniva dal lacanismo e ha rotto con molta decisione col lacanismo, loro erano anche abbastanza interessati a questo tipo di meccanismo. Ma ciò che in assoluto non potevano accettare, sia dal punto di vista filosofico che politico, politica della soggettività in questo caso, è il fatto che la tua vita si riproduce nella mancanza continuamente. E sostanzialmente questa è una logica che riproduce l'impotenza, l'inazione, lo scacco. E la vita che si dà nello scacco, d'accordo, sì, è una constatazione che spesso, anzi oggi sempre più che mai, si ripropone. La vita non è solo questo, non è sempre il passaggio a vuoto, perché alla fine cosa vivi? questa osservazione a livello sia filosofico, esistenziale, direi fondamentale, si sostanzia nella critica di Deleuze e Guattari, già nell'Antiedipo e tutto su questo, l'idea dell'inconscio inteso come linguaggio. Cosa produce il reale? Come l'ho descritto prima, molto sommariamente, produce linguaggio. La tua vita è linguaggio. E questo linguaggio su cosa si fonda? Su questa riproduzione sempre nuova dello scacco, del fallimento, dell'assenza, della non coincidenza tra te e te stesso. Sostanzialmente, questa idea dell'inconscio inteso come linguaggio riduce l'idea della soggettività all'io. Su questo, Guattari, tutta la filosofia psicanalitica di Guattari si distacca in maniera clamorosa, a tal punto da arrivare a formulare già una teoria dell'inconscio completamente diversa, definita già dall'Antiedipo, ma tutti i libri e i saggi successivi di Guattari sono veramente formidabili da questo punto di vista, anche dal punto di vista della pratica psicanalitica, inconscio macchinico. L'inconscio si produce come la realtà, è uno degli elementi della realtà. A partire da questa definizione sono totalmente prive di fondamento tutte quelle pseudo leggende che sono state non a caso diffuse a proposito di Deleuze, perché Guattari di solito non esiste, cioè non viene letto, lo signore è troppo complicato, cioè, ma non è affatto complicato. Sì, Guattari si prendeva ogni tanto grandi libertà concettuali e iniziava a fare poesia del pensiero e si inventava cose strepitose, di difficile comprensione, effettivamente. E però è molto d'aiuto i suoi scritti brevi, politici e psicanalitici. Ultimamente, diversi anni fa, è stato pubblicato un libro molto prezioso a cura di Daniel Sivadon e Jean-Claude Polac, dove loro, una coppia di psicanalisti molto amici di Guattari, dove discutono concretamente come funzionava il Guattari psicanalitico, cioè con il tuo paziente cliente, no? Poi lui era uno psichiatra, non era solo uno psicanalista, operava alla Border, una clinica, grande clinica dove è stata sperimentata un'idea molto francese di psicanalisi istituzionale, dove va bene, insomma, tante cose. Stiamo parlando di un luogo molto importante per la comprensione e l'uso della psicanalisi, tra i più alti del Novecento, alla stessa altezza di Lacan e del lacanismo, ma evidentemente diversissimo. Poi, se volete, possiamo discutere a lungo cosa è l'inconscio macchinico, da cosa è composto. Un esempio, Guattari e Deleuze criticano ad esempio l'idea di inconscio in Freud, e in particolare l'idea che lui l'abbia ricavata dalla mitologia greca, l'Edipo, Elettra, eccetera, eccetera. E sono pagine di una bellezza queste di Guattari, c'è un saggio molto importante a tale proposito, dove lui dice, sì, certo, quello è uno dei materiali in cui si alimenta l'inconscio, la letteratura e i miti greci, che poi era la cultura borghese di Freud, che genialmente Freud ha messo in uso per descrivere la sua grande intuizione sull'inconscio, la sua creazione concettuale. E Guattari dice, sì sì, va bene, ma questa è una minima parte. L'inconscio macchinico si alimenta della pubblicità, delle relazioni, degli oggetti, delle produzioni, delle erbe, delle formiche, così come delle insegne al neon che cita la Samaritan, che era un grande magazzino degli anni 80 a Parigi, e fa questo, è come un grande supermercato l'inconscio oggi del capitalismo, dove la soggettività ha sostituito la mitologia greca. Ciò non toglie che tu non lo possa interpretare anche attraverso i simboli e gli archetipi che Freud, non solo Freud, ha usato per descrivere l'idea di inconscio. Lui dice: no, noi questa sì, è interessante, ma non è solo questo. Andiamo alla Samaritan e l'inconscio della soggettività capitalistica funziona come quel supermercato, li rimonta continuamente e su quello costruisce il suo desiderio e la sua idea di scacco del desiderio, il suo piacere e anche la sua negazione. E poi, insomma, fa tutta un'altra serie di considerazioni. Stiamo parlando di uno che aveva letto i grandi classici, Freud, Jung, Lacan, e creava il suo metodo. E in più scriveva questi libri con Deleuze. È un grande momento della cultura, della politica contemporanea. E questi stavano con i movimenti, con la rivoluzione. Cioè, questa è la grande discontinuità, che di solito questi grandi interpreti della cultura occidentale sono un po' conservatori, ma grandi menti, anche capaci di grandissime aperture. Ma questi stavano nelle pratiche di questo tipo. Questo è il grande cortocircuito che, tra l'altro, ha prodotto anche queste controreazioni culturali dentro questo ciclo politico storico in cui tuttora ci troviamo, quella controrivoluzione neoliberale. Altri, dopo Edipo delira sul sociale, perché questa è la loro affermazione, fantastica, illuminante. Ci salutiamo? Avete domande? Questioni? Intanto per ringraziare Cox, la libreria e l'archivio Primo Moroni, Roberto di averci veramente omaggiato, sì, un piacere vero, dai. E la mia complice, sempre complice, in continua in stretta alleanza, vediamo cosa riusciamo a continuare a fare. Questi adesso due fine settimana intensissimi stanno anche producendo molte cose, per cui dei concatenamenti collettivi anche in momenti difficili si riesce ad avere quelle crepe, quei varchi che a volte sembrano esclusi e invece no, sono lì. Bisogna lavorare, diciamola con Marx, va, talpe. Signori, grazie a tutti, cari amici, cari compagni, ciao e a presto, grazie a tutti.